1779. 39. Ordini di George Washington al generale maggiore John Sullivan, 31 maggio 1779. La spedizione di cui vi è stato affidato il comando deve essere diretta contro le tribù ostili delle sei nazioni, compresi i loro sodali e clienti. L'obiettivo immediato è la distruzione totale dei loro insediamenti e la cattura del maggior numero di prigionieri di entrambi i sessi e di tutte le età. Sarà essenziale devastare i campi, impedendo il raccolto in corso e quelli futuri. Consiglio e raccomando di insediarsi al centro del territorio indiano con una scorta sufficiente di vettovaglie e munizioni e da lì far partire le spedizioni contro i villaggi all'intorno, dando istruzioni di farlo nel migliore e più efficace dei modi, così che il paese non venga semplicemente saccheggiato, ma distrutto. Voi non presterete orecchio a nessun tentativo di pacificazione fino alla devastazione totale di tutti gli insediamenti. La nostra sicurezza futura risiede nella loro incapacità di danneggiarci e nel terrore che la severità della nostra punizione saprà instillare nelle loro menti. Uccelli. Uccelli da preda. Anche i tratti e il modo di portarsi degli indiani li rendevano simili a volatili, incrocio tra galli e corvi, tra tacchini e aquile. Il modo di parlare, poi, era simile a un gorgoglio, a uno starnazzamento, incomprensibile più dello spagnolo o del cinese. Ora i nidi bruciavano uno dopo l'altro, risalendo il Susquehanna lungo il territorio irochese. Non un solo abiuro, non un singolo fortilizio di selvaggi era rimasto in piedi. Goigwohen, Chonokote, Kanadasega. Che senso aveva dare ancora un nome alla desolazione, alla rovina, al deserto? Terra Vergine, così avrebbero dovuto chiamarla in futuro. Terra Redenta, consegnata a chi l'avrebbe messa a frutto. John Sullivan si atteneva agli ordini con il massimo scrupolo. Era un nuovo stile di guerra dettato dalle contingenze, consentito dall'allentarsi della morsa britannica sulla colonia di New York. Fare terra bruciata, annientare il seme di nazioni riottose. Il compito era decisivo, anche se la potenza degli irochesi era un ricordo lontano. Mohawk, Onondaga, Cayuga e Seneca scontavano con laghi di lacrime e fiumi di sangue la miopia e l'arroganza dei loro caporioni. Un tempo i letterati delle città sulla costa avevano chiamato quei selvaggi nobili primitivi e ateniesi d'America. La distanza geografica falsa la prospettiva. Visti da vicino, i selvaggi erano loschi, sporchi, infidi, pronti a prostrarsi ai tuoi piedi perché case, campi e possedimenti fossero risparmiati, pronti a spararti alle spalle alla prima occasione. Quegli esempi di nobiltà primigenia erano animali vendicativi, meglio andare fino in fondo, cancellarli una volta per tutte, in modo da proteggere i giorni futuri e la propria discendenza. Quello che stava accadendo era simile alle storie della Bibbia. Interi popoli spazzati via, generazioni estinte dalla faccia della terra, città di cui non restava in piedi nemmeno una pietra. Tutto con la benedizione del Dio degli eserciti, protettore di George Washington, il distruttore di città. Sullivan guardò nel cannocchiale il villaggio che bruciava a mezzo miglio più a valle e si sentì sfiorato dall'ala terribile della storia. Schiere di fanti e convogli di artiglieria salivano la pista. Tamburi rullavano, pifferi trillavano, colonne di fumo si alzavano sull'orizzonte. L'aria risuonava degli ultimi spari, grida lontane. Bisognava essere accurati, questo preoccupava Sullivan. I nidi bruciavano, ma i selvaggi avevano ancora voglia di combattere. Si ritiravano nei boschi, vivevano di radici e corteccia, smunti, secchi come scheletri. Conservavano l'ultimo fiato che avevano in collo per ficcarti un coltello tra le costole. Che scappassero pure! Non avrebbero trovato nemmeno un seme di miglio per calmare la fame. Alcuni villaggi erano fatti di case simili a quelle di gente civile, altri erano nient'altro che ammassi di baracche. Tutti avevano intorno palizzate, alcuni sembravano veri e propri fortini, con tanto di Union Jack a sventolare, ultima, inutile provocazione. Ma non si trattava di assediarli, ti appostavi, sistemavi cannoni e mortai, aspettavi l'ordine, incominciavi a far piovere sul nemico la giusta punizione. L'artigliere André Brillman bevve un sorso e fece passare la borraccia. La pista che saliva dal villaggio era una lunga teoria di volti scavati, corpi dolorosi ed esangui. I prigionieri, vecchi, donne e bambini, procedevano in silenzio. Le donne coprivano il volto con il lembo delle coperte che portavano come sopravveste, infanti sulle spalle o aggrappati al petto. I vecchi tenevano gli occhi a terra, nella polvere e nel fango indurito. L'artigliere odiava quella parte del proprio dovere. Assistere alla sfilata dei vinti, di quei vinti non lo esaltava. Il dolore è una specie di aura, di bolla maligna. Stare troppo a contatto della sofferenza fa marcire gli umori del corpo, fa invecchiare presto. Le settimane di campagna sembravano mesi, anni. Quando si trattava di sistemare il pezzo, calcolare l'alzo, caricare e accendere il focone, Andrei si sentiva bene. Erano gesti ordinati, meticolosi, una specie d'arte. I serventi erano un'orchestra ben affiatata, un lavoro pulito. Ringraziò il destino che lo aveva voluto artigliere. Razziare villaggi e accanirsi su gente inerme non faceva per lui. Eccoli lì, i fanti, invece. Spingevano i più lenti con il calcio del fucile. Urlavano, inveivano, sghignazzavano. Una vecchia indiana inciampò e cadde a terra. Senza pensarci, Brillman l'aiutò a rialzarsi. «Perché non le dai anche la tua giubba, samaritano?» L'artigliere si scosse. La voce apparteneva a un ex miliziano della Mohawk Valley che batteva la campagna al seguito dell'armata, insieme a una banda di brutti ceffi. Un indiano Delaware, un ex mercante di Albany, due cacciatori di pellicce. Il volto dell'uomo era beffardo, ostile. A Brillman tornò in mente il nome. «Che intendete dire, signor Klug?» Dietro Klug si fece largo un altro dei ceffi. «Non sopporto chi spreca commozione per gente simile», indicò la sfilata alle sue spalle con un gesto veloce della mano. «Nessuno può dire di essere un patriota americano e provare pietà per quegli animali». Il volto della guida trasudava odio. Dietro di lui il gruppetto di irregolari, facce spigolose, occhi ridotti a fessure. «Lasciate stare questo soldato!» La voce bassa e decisa del sergente Haring avrebbe dissuaso chiunque. Ma prima che potesse frapporsi fra l'artigliere e il suo persecutore, quest'ultimo si scagliò come una furia contro l'avversario. Brillman cadde a terra di schiena. L'avversario lo teneva fermo, premendo con la mano sinistra sulla gola, tempestandolo di colpi con la destra. L'artigliere reagì con la forza della disperazione. I corpi presero a rotolare nella polvere, seguiti da urla, calci, imprecazioni, mentre attorno artiglieri irregolari venivano alle mani. Il generale Sullivan era stato tentato della punizione esemplare. Almeno lui, però, si sarebbe attenuto al codice di guerra. Gli uomini che si erano sfilati davanti avevano la faccia tumefatta, la divisa strappata. Nessuno aveva confessato la causa della rissa. Gli irregolari che sembravano averla provocata erano spariti. Avrebbe dovuto punire gli offesi. Il codice di guerra parlava chiaro. Sullivan pensò al sangue che sarebbe uscito sotto i colpi di scudiscio. Poco male, quella terra ne era già intrisa. Firmò la sentenza. Gli uomini uscirono dalla tenda da campo, schiavettoni ai polsi, sospinti dai calci dei fucili. Era l'ultimo dovere della giornata. Chiamò l'attendente, ordinò di non far passare nessuno, versò un bicchiere di sherry. Alla luce del lume, sul tavolino che faceva la scrivania, Sullivan aprì il libro che l'aveva accompagnato nel corso di tutta la carriera. De Bello Gallico. Era adatto al contesto. Riprenderne la lettura gli aveva concesso momenti di esaltazione, lo aveva indotto a riflettere, gli aveva fornito modelli ed esempi innumerevoli. Si avvicinavano a Fornagara, l'Alesia dei lealisti. La gloria del mondo è transitoria. Un tempo il crollo delle sei nazioni sarebbe stato impensabile, ora l'agonia di quell'antico potentato si intrecciava con l'ascesa di una nuova nazione. All'inizio della guerra il terrore aveva percorso le città della costa. Si credeva che orde di indiani potessero calare dai boschi e mettere a ferro e fuoco ogni cosa. Burgoyne, nello sconfitto di Saratoga, aveva cavalcato queste fantasie e messo in giro un sonetto in cui parlava degli indiani come di 10.000 cani dell'inferno, pronti a vendicare l'onore dell'Inghilterra. Stupido, un tiranno protetto da un branco di selvaggi, ecco la figura che aveva fatto fare al proprio re. Non c'era posto per il passato in America.